la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento della prima volta. Oggi con noi c'è un ospite che probabilmente molti, soprattutto milanesi, già conoscono per il suo contributo proprio alla comunità. È una maestra di scuola elementare, ma non solo. Vedremo nel corso di questa puntata quali sono i punti di forza di Flaviana Robbiati. Buonasera Flaviana. Buonasera. Allora, io inizierei proprio a raccontare quello che è stato il tuo percorso, la tua scelta anche professionale, quindi il fatto che tu a un certo punto ti sei ritrovata a gestire dei bambini rom e questo che inizialmente era parte del tuo lavoro quotidiano è diventato poi una sorta di progetto di vita. Ci racconti com'è andata? La scelta di fare questo lavoro, è 40 anni che lo faccio. E, è nata in famiglia perché io avevo un fratellino Down e quindi ho conosciuto la necessità di adattare la scuola alle singole esigenze da piccola, perché è stata un'avventura anche quella del mio fratellino, è stato uno dei primi bambini inseriti in una scuola normale. E ho capito anche quanto la cultura sia determinante nella vita delle persone per dare dignità, per dare autonomia, ma anche quanto sia importante la conoscenza tra chi è normodotato o in qualche modo nella norma e chi è un pochino fuori. Quindi la mia è stata una scelta intanto di fare questa professione e poi di farla in estrema periferia. Io insegno in una scuola della periferia est, dove proprio finiscono le case e dove arrivano molte novità prima che nelle altre zone della città, prima che in centro. E quindi c'è stato poi questa conoscenza con il mondo rom grazie alla comunità di Sant'Egidio, che nel 2008 aveva iscritto a scuola 9 bambini della baraccopoli di Rubattino. E da quella baraccopoli, da quell'esperienza, poi è nato tutto un progetto molto più corposo. Quei bambini vi hanno insegnato, a voi insegnanti appunto, molte più cose di quello che pensavate. Io mi ricordo che tu ci avevi raccontato proprio anche il successo che voi avevate poi letto quando a colloquio si erano presentati i genitori. Insomma, avevate fatto qualcosa, ma in cambio avevate imparato anche molto. Sì, sì, sì. È nato qualcosa che adesso è grande, ben consolidato, ma che all'inizio non sapevamo assolutamente cosa sarebbe stato. Cioè, noi ci siamo trovati dei bambini, per fortuna la scuola pubblica non sceglie gli scolari e le famiglie non scelgono gli insegnanti, e quindi si impara a stare insieme, piaccia o no. Questi primi bambini sono stati accolti come bambini innanzitutto, più che come bambini rom. Primo anno è stato un anno tranquillo, nel senso che questi bambini frequentavano la scuola regolarmente, ed è stato un anno prezioso per imparare a conoscerli e a ripulirci da tutti i pregiudizi che anche noi insegnanti avevamo, perché non eravamo immuni nemmeno noi. Una delle prime battute di una collega era stata: ragazze, teniamo stretta la borsetta. E poi ci siamo resi conto che invece non spariva niente, non succedeva niente, e che le mamme e i papà di questi bambini erano mamme e papà, come tutti gli altri, estremamente poveri. Il primo anno è stato proprio un anno di conoscenza. Dopo un anno la giunta dell'epoca aveva annunciato lo sgombero del campo di Rubattino. I bambini da 9 erano diventati 36, e per noi insegnanti perdere 36 bambini, perché uno sgombero significa perdere tutto. La baracchina, ma anche la possibilità di proseguire la scuola, perché bisogna trovare un luogo in cui rifugiarsi. Per noi non era accettabile questo, e proprio ci siamo ribellate davanti a una decisione che ci sembrava un'ingiustizia. Con noi si sono rifiutati di accettare in silenzio questa cosa anche molte famiglie, perché nel frattempo bambini italiani, bambini rom avevano fatto amicizia, e quindi avevamo iniziato un'azione perché venisse garantito il diritto alla scuola di questi bambini. Abbiamo scritto a tutte le autorità possibili, inutilmente, perché poi lo sgombero c'è stato. Era novembre, faceva freddo, a quel punto i nostri bambini erano senza casa, senza nulla, e sono stati ospitati loro con le loro famiglie nelle case delle maestre e dei compagni. E da lì poi è nato tutto, una storia che si è allargata sempre di più. adesso i bambini che vanno a scuola, intanto i piccolini di allora sono alle superiori. Sono, hanno continuato, quindi... Sì, qualcuno l'abbiamo perso, perché poi comunque le vicende degli sgomberi provocano una difficoltà scolastica pesante, per cui non tutti ce l'hanno fatta, però ce ne sono anche ragazze, e questo è molto importante. Li sosteniamo anche con borse di studio, perché proprio puntiamo sulla loro crescita culturale in maniera fortissima. E ci sono bambini al nido, anche al nido, alla scuola materna, alle elementari, eccetera. Questo è un percorso, diciamo, che ha dato forse la possibilità anche alle donne rom di integrarsi, avendo più spazio, più tempo con i bambini a scuola. Insomma, probabilmente si è creato proprio un circolo virtuoso in qualche modo. Sì, un circolo che ha fatto crescere tutti. Di quelle famiglie, che erano 300 le persone, più di 300 che abitavano in baraccopoli, sono tutte in appartamento adesso. Grazie esclusivamente alle forze del volontariato, e vivere in una casa vuol dire poter andare a scuola regolarmente e non dover interrompere più il percorso scolastico, vuol dire che i genitori hanno un lavoro, vuol dire avere delle relazioni sociali intense con il mondo milanese, e questo ha portato una grande crescita delle persone rom, che non hanno perso la loro cultura, le loro tradizioni, ma che le hanno integrate benissimo con la cultura milanese, con le regole milanesi. Per noi volontari, che guidati, diciamo, dalla comunità di Sant'Egidio, poi il gruppo è molto molto largo, per noi è un'esperienza di una ricchezza infinita, e pensiamo che questa sia anche una città più bella adesso e più giusta. La città ha risposto, diciamo, all'interno del microcosmo di cui parlavi, ha risposto subito con solidarietà, quindi famiglie che hanno ospitato altre famiglie rom nel caso dello sgombro di cui parlavi prima. Ma la città in generale, però, alcune volte è stata molto ostile rispetto alla comunità rom. Secondo te perché c'è questo pregiudizio? Perché è così radicato soprattutto nei confronti dei rom? C'è sempre bisogno di mettere qualcuno sul gradino più basso, e i rom sono regolarmente sul gradino più basso. I pregiudizi li abbiamo dentro per tante ragioni. Allora, l'ostilità la si è vista allora, la si vede ancora. Dal nostro punto di vista si va avanti nonostante l'ostilità, cioè non combattendo l'ostilità in maniera diretta, muro contro muro, ma favorendo dei percorsi di integrazione che poi di fatto erodono l'ostilità ai fianchi. C'è un segreto in questo, che è il fatto di conoscersi, proprio di conoscersi personalmente, con un nome e un volto. Il pregiudizio lo si ha in genere non verso il singolo, ma verso un gruppo, verso un'etnia che non si conosce. Infatti capita spesso di sentire persone che fanno la battaglia contro i rom, che poi però dicono: sì, però la signora che sta all'angolo del mio supermercato, quella no, perché quella è brava. Allora, non è che quella sia più brava, è che quella signora la conosci la sua storia, la sua povertà, la sua difficoltà. Poi c'è l'idea che i rom abbiano una loro propensione verso la criminalità o rubare i bambini. Ecco, questo è un errore, questo giudizio in chiave etnica, cioè non sono caratteristiche dei rom, ma sono caratteristiche di tutti i gruppi sociali estremamente poveri, poveri economicamente, poveri culturalmente. Infatti ci sono sono zone in Italia dove le ragazzine si sposano presto, dove gli uomini hanno atteggiamenti di prevaricazione sulle donne, dove la microcriminalità, e non solo micro, è diffusa, dove c'è l'abbandono scolastico. Quindi va letto in chiave sociale, non in chiave etnica. Allora, Flaviana, noi adesso ci dobbiamo fermare per qualche istante e torniamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su RDS.it. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati alla prima volta in compagnia questa sera con Flaviana Robbiati, una maestra che però ha fatto della sua professione una scelta in qualche modo di vita, possiamo dire così, perché tu sei sempre sul pezzo, come direbbe un giornalista, cioè ti chiamo, ci sei, è 40 anni che fai questa professione, non hai perso la voglia appunto di raccontare quello che state facendo, sei con gli ultimi, perché questo lo possiamo dire. Partiamo dall'analisi, diciamo, in generale. Flaviana, secondo te, con 40 anni di esperienza alle spalle, la scuola come la vedi oggi? La scuola pubblica è dura. Ma la scuola pubblica la vedo cambiata, la vedo diversa. Poi è giusto che le cose cambino, le istituzioni cambino. Vedo che molte energie vengono utilizzate per tante cose che non sono i bambini. Allora io penso che i bambini siano il centro della scuola. Lo devono essere, perché la scuola è stata pensata per quello. Però molte energie, ma veramente tante, si disperdono in altri ambiti che sono relativi alla burocrazia, all'amministrazione. Vedo un grande impegno anche a livello di legislazione per emanare linee guida per i bambini adottati, linee guida per i rom e sinti, linee guida per i BES, i bambini con bisogni educativi speciali. Però tra l'emanazione di questi documenti e un cambio di modo di insegnare, insomma, vedo una distanza enorme. Forse la scuola dovrebbe riappropriarsi di strumenti estremamente semplici, ma poi sono le chiavi dell'insegnamento, che sono la relazione educativa, perché passa tutto da lì. Non c'è linea guida o progetto educativo personalizzato che tenga se poi non ho passione per i miei bambini. E una competenza professionale alta, non è un lavoro che si può fare a braccio, questo è un lavoro che richiede una preparazione, uno studio continuo, una messa in discussione continua per diventare insegnanti migliori. Ecco, tu hai detto che lavorando in questa scuola di estrema periferia hai visto arrivare sempre le novità prima che poi arrivassero, diciamo, più in centro, perché poi di fatto è così, le periferie accolgono o cercano comunque di accogliere quello che succede nel mondo un po' prima. Le cose arrivano sempre un po' prima in periferia e poi in centro, di solito le cose difficili da gestire. E ci stavi raccontando di questo primo anno e quindi con l'inserimento di questi ragazzini rom, di questi bambini rom, e del successo che poi nel corso del tempo avete portato avanti. Adesso la situazione com'è? Allora, adesso le famiglie in casa sono più di 50, sparse per tutta la città, soprattutto in periferia, alcune fuori Milano, case che abbiamo trovato con vari percorsi, che possono essere case messe a disposizione con degli affitti calmierati da privati o da fondazioni, o anche case popolari, e ci tengo a precisare, con dei percorsi non privilegiati. A volte sento dire si danno le case ai rom. si danno le case ai rom esattamente con le stesse regole con cui si danno agli altri cittadini, quindi chi ha avuto una casa l'ha avuta perché aveva i requisiti per averla. I percorsi lavorativi sono sempre faticosi, come lo sono per chiunque in questo periodo, in particolare per chi magari non è qualificato, però la voglia di lavorare è tanta e l'impegno, la tenacia è tanto. Troviamo persone rom nella ristorazione, le donne soprattutto nelle pulizie o presso privati o presso alberghi, gli uomini nell'edilizia, parecchi si occupano dello smaltimento di rifiuti tossici dell'amianto, quindi lavori che forse non faremmo più noi italiani. Ecco, i percorsi sono di annodando proprio un nodo dopo l'altro con grande pazienza, dicevi sul pezzo 24 ore al giorno. Sì, perché il segreto non è quello di una, dicevo che innanzitutto quello della relazione personale, ma una relazione personale che è di fiducia e di affetto e di interesse reciproco, come fosse una grande famiglia. E in famiglia quando arriva la telefonata si risponde. Ecco, noi non siamo operatori a orario, noi siamo amici che si affiancano e che camminano insieme. Qual è stato il momento, se te lo ricordi, appunto di questa tua presenza in amicizia, quindi in questa relazione di amicizia, il momento più difficoltoso, cioè la telefonata che non ti aspettavi e che ti ha un po'... Sono state tante, era soprattutto quando c'erano gli sgombri, le telefonate di c'è lo sgombero, dove andiamo? Dove andiamo non lo so, dove andiamo? E questi bambini che venivano esposti al nulla in qualunque stagione, in qualunque orario. E quello era proprio il momento in cui non so dove andiamo, ma siamo insieme, ma siamo vicini. E storie di lutti brutti, perché sono lutti dovuti alla povertà, questo non è giusto. Cioè? La povertà, perché vuol dire l'impossibilità di curarsi, l'impossibilità di vivere in maniera dignitosa, cosa che adesso vivendo in casa è superata. Abbiamo anche dei momenti molto, molto belli, questi inviti a cena, una grande ospitalità, anche una grande allegria, che non vuol dire che tutti i problemi sono cancellati, ce ne sono ancora tanti. Ecco, l'ultimo è un problema di ieri, di un bimbo che ci ha detto che un compagno di giochi è un bambino che abita in un appartamento messo a disposizione da una parrocchia, quindi con un gesto molto bello e con un coinvolgimento molto positivo e attivo da parte della parrocchia, però poi c'è sempre una voce magari che ancora non è arrivata a maturare bene le cose, e questo compagno di giochi gli ha detto tu vivi lì perché sei un barbone. Ecco, le frasi che feriscono ci sono ancora. Tra le tante difficoltà, questa è una delle difficoltà, anche se adesso i nostri bambini, le mamme e i loro papà sono assolutamente belli, cioè le donne non hanno il sottanone sono vestiti all'occidentale, diciamo. Non importa, c'è sempre questo desiderio di indicare il povero, che non è solo del bambino un po' così piccolino che non ci ha pensato bene, ma il povero messo ai margini è ancora una ferita di questa città. Non è una ferita solo dei poveri, è una ferita della città. Il povero che viene marginato, nascosto, e per povero intendo una povertà larga, possono essere gli immigrati, i profughi, ma sono anche gli anziani messi nascosti, che nascondiamo dentro gli istituti, sono i profughi che nascondiamo dentro i centri apposta per loro. C'è un desiderio diffuso di allontanare i poveri, di difendersi dai poveri invece che difendere i poveri, e questo riguarda tutti i poveri, e su questo la città si dovrebbe interrogare un po', perché la città o è di tutti o non è. Nemmeno chi pensa di avere una bella città avendo chiuso tanti muri ha una bella città, ha un fortino, non ha una città. Senti, e ti ricordi invece la prima volta che hai iniziato a insegnare, che classe avevi? Cioè, a proposito di poveri, chi erano i poveri quando hai iniziato a insegnare? Ho iniziato da supplente, come tutti gli insegnanti, quindi cambiando classe più o meno tutti i giorni. Ma era un mondo completamente diverso. La mia scuola è vicino a quello che una volta era l'orfanotrofio dei Martinit. Quindi erano bambini non tanto orfani, ma dietro i quali c'era un decreto del tribunale che li affidava all'istituto. Erano dei bei banditi, di sicuro. Erano meravigliosi. Sì, quelli forse sono stati i primi, però in fondo ogni bambino ha una sua, se non vogliamo chiamarla povertà, una sua fragilità, un percorso che deve fare. Cioè dovremmo anche abituarci a pensare non in termini di bambini uguali, bambini diversi o cittadini uguali, cittadini diversi, ma ognuno di noi ha dei punti di forza e ognuno di noi ha qualcosa che deve migliorare, su cui deve crescere. Che cosa ti è arrivato in cambio rispetto a questo lavoro? C'è un episodio che ti ha fatto capire che ne valsa veramente la pena? Ma quello che ho ricevuto è tantissimo. All'inizio noi non sapevamo cosa sarebbe successo e abbiamo fatto. E poi ci siamo accorti, guardandoci indietro, che era successo qualcosa di grandioso. Non tanto di grandioso nel cambiamento della vita di queste persone, ma di grandioso nel cambiamento della nostra vita, perché adesso siamo persone senz'altro più contente, più serene, più giuste, forse con la consapevolezza anche di aver fatto qualcosa che è bello. Insomma, quando si va a letto la sera, si va a letto di solito contenti. Quando vanno in porto delle storie estremamente difficili, allora si va a letto particolarmente contenti. Grazie davvero a Flaviana Robbiati, che è stata con noi questa sera. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, per tutto quello che ci ha fatto vedere con le sue parole e con il suo lunghissimo e meraviglioso impegno. Noi ci risentiamo sempre domenica, sempre alle 23. Potete scriverci all'indirizzo la prima volta @radio24.it o riascoltarci in podcast. Buona serata a tutti, da Cristina Carpinelli.